Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di un esordiente molto molto particolare, perché è vero, questo è il suo primo romanzo, ma lei è un po' la signora forse europea dell'editoria, possiamo definirla così, perché ha lavorato moltissimo nell'editoria sia italiana ma soprattutto francese, con case editrici, ve ne dico una così a caso, Gallimard per dire, Flammarion, che sono delle case editrici veramente fondamentali per il mercato francese. Lei si chiama Teresa Cremisi, il romanzo è La Trionfante, pubblicato da Adelphi. Teresa Cremisi, come dice il nome stesso, è italiana ma ormai naturalizzata francese. L'ho presentata appunto come esordiente perché di fatto questo è il suo primo romanzo. Dopo aver vissuto una vita nell'editoria, da ragazza a Milano e quindi in Italia eccetera, poi in Francia, ha deciso a un certo punto della sua vita di debuttare appunto nella scrittura. Perché? Allora, prima di tutto sono un esordiente, lo rivendico, un esordiente di una certa età e anche un esordiente che si sorprende lei stessa, perché avevo giurato di non scrivere mai niente di personale. Come vede, non bisogna mai giurare, non bisogna mai dire no. Perché è un insieme di casi. Un giovane editore che stimo, conoscendo la mia passione per foto antiche, soprattutto dell'Oriente, disegni dell'Ottocento, mi chiese di scegliere 30 immagini parlanti significative e di scrivere un testo letterario con dei ricordi sotto ognuna. Io ho cominciato e ho fatto un'altra cosa. Perché è diventato un romanzo praticamente. È diventato un romanzo. Senza foto, bisogna dirlo. È diventato un romanzo senza foto. Si tratta, ecco, c'è una caratteristica. Noi al cacciatore di libri non facciamo mai una domanda, cioè se i romanzi sono autobiografici, perché pensiamo che insomma ci sia sempre un po' dell'autore in ogni romanzo. In questo caso però è dichiaratamente un memoir. O meglio, ho letto un'intervista dove lei ha dichiarato non si tratta di un'autobiografia, ma di un autoritratto spirituale. Che voleva dire? Perché tutti mi hanno posto, il libro è uscito un anno fa in Francia, e naturalmente tutti mi hanno chiesto: questo è vero, questo è finto, questo è vero o è finto? Ma lei ha dei figli, perché non lo dice? Alla fine ho dovuto dire: guardate, non è un'autobiografia, si serve di quello che ho vissuto, la protagonista ha i miei gusti, ha i miei disgusti, diciamo che è un autoritratto. Ci sono arrivata qualche mese fa a questa definizione. È un autoritratto spirituale, è una storia che sicuramente ricalca molto la sua storia, che è anche molto affascinante, veramente è un romanzo. Lei è nata ad Alessandria. C'è di peggio, una sì, però insomma in questo caso è un romanzo bello, positivo, dai risvolti positivi, perché è nata ad Alessandria d'Egitto, ha vissuto la sua infanzia appunto in Egitto, poi negli anni 50 è andata un po' in Europa, a Parigi, poi c'è stata l'Italia, Milano, il 68, insomma, in questo appunto autoritratto spirituale lei racconta alcuni pezzi di vita vissuta. Mi ha colpito molto la parte sull'infanzia egiziana, perché si capisce che è piena di ricordi, cioè della nostalgia da parte sua, oppure è quella tipica insomma che avvertiamo tutti per la nostra infanzia. Mi difendo dalla nostalgia, ma siccome la mia narratrice ha qualche anno più di me, mi sono servita sia dei miei ricordi che di quelli dei miei genitori, il che mi ha permesso di fare il ritratto di una civiltà piccolissima, un microcosma, in pericolo e che viveva spensieratamente senza sapere di essere in pericolo. Direi che noi bambini, perché ho un ricordo di compagni, eravamo più consci di quello che era la precarietà di questa felicità, di quanto non lo fossero i nostri genitori, che investivano in macchine, automobili, progetti, mentre la sensazione di essere in bilico su un precipizio io ce l'avevo. Ecco perché l'io narrante, diciamo Teresa Cremisi, l'io narrante insomma di questo romanzo, per esempio sottolinea che in quegli anni, siamo negli anni insomma del secondo dopoguerra, c'era una certa tensione, si preferiva, le vostre famiglie avevano preferito rimanere in Egitto. letto e non andare per esempio in Europa, ma c'era anche la consapevolezza che facevate parte della buona società, insomma, economicamente stavate bene. È giustissimo. E culturalmente eravate sì, in un ambiente elevato. Ma c'era la convinzione che quella era la nostra, la loro terra. Erano nati lì, i loro genitori erano nati lì. Credo di avere un bisnonno nato a Baghdad, ma per il resto erano tutti alessandrini. E Alessandra aveva delle case come lei le può trovare oggi a Genova o a Napoli, esattamente lo stesso tipo di bellezza, di ricchezza, liberty o art deco, che si voglia dire, o fine secolo, che lei trova in queste città del Mediterraneo fortemente europeizzate. Per cui la sensazione di essere a casa, visto che erano nati lì, era naturale ma ingenua. Ecco, e poi è stato un trauma, diciamo, il passaggio. Si parla di diversi viaggi, naturalmente ci si imbarcava per la Francia, poi per l'Italia, eccetera. È stato, fra virgolette, un trauma passare alla realtà francese, a quella italiana e poi di nuovo a quella francese? Per la bambina che ero e tale, e anche per la narratrice, è un trauma relativo. In realtà i bambini sono delle antenne che captano e si adattano infinitamente meglio degli esseri adulti che credono di aver fatto la loro vita qualcosa di stabile. Per cui il trauma è soprattutto per chi ha superato i 30 anni. È un trauma terribile perché tutti i punti di riferimento non esistono più. Lei non può più parlare nello stesso modo, non può più prevedere che cosa farà fra 6 mesi, non ha più le stesse chiavi, lo stesso numero di telefono, non ha più niente. Sì, si ricomincia veramente da capo. E infatti c'è una cosa che mi ha colpito, mi colpisce sempre delle persone un po' nomadi, no? Che hanno vissuto in vari posti e soprattutto che conoscono diverse lingue. Il tema della lingua, lei lo ribadisce in diversi punti del suo romanzo. Penso che sia fondamentale in quello che ho voluto fare, riaffiora proprio perché è molto importante. La lingua definisce come la voce, le corde vocali, definisce la persona. Cambiando lingua si cambia un po' persona, si cambia se stessi. E lei dice che la sua lingua è il francese. È una domanda alla quale non so proprio rispondere. O almeno la protagonista, diciamo, Lio Narrante, sì, a un certo punto dice io che... Io personalmente non so risponderle. Appena arrivo in Italia non è più il francese. Il bilinguismo è come essere in cima a una montagna, non si è mai proprio in cima, si è sempre un po' più declinanti da un lato o dall'altro. Questo libro lei l'ha scritto in francese, lo ricordiamo, è stato tradotto da Lorenza Di Lella e Francesca Sala. Lei poi ha avuto anche uno sguardo, ecco, insieme a loro, naturalmente conoscendo perfettamente l'italiano. In che lingua sogna? Dipende dal luogo, vede? Ah, ecco. Quando sono in Italia in vacanza sono sicura di sognare in italiano e quando sono altrove sono in francese. C'è un'altra cosa che mi aveva incuriosito fra i vari elementi di questo romanzo. A un certo punto Lio Narrante scrive che è appassionato dai supermercati, cioè questo fatto di andare a vivere spesso in varie città, appunto cambiare luogo eccetera, che lei appena arriva in una città nuova va a fare un giro al supermercato, possibilmente da sola. Questo è autobiografico. L'avevo intuito. È una cosa che piace molto anche a me, conoscere le realtà straniere. Quando vado all'estero, al di là del museo, vado a vedere il supermercato per vedere cosa vendono. Adesso certo ci sono molti prodotti simili, però effettivamente il supermercato dà è una cartina al tornasole del luogo dove si va. È un discorso infinito quello, però è chiaro che vedere gli oggetti del quotidiano in Ucraina o a Madrid o in Italia o a Parigi significa, se uno ha l'occhio, capire un po' del quotidiano della gente. È quasi più interessante che sentire i discorsi degli esperti sui paesi. Questo è infatti un aspetto molto bello, molto umano e secondo me molto pragmatico anche di avere un'idea quotidiana del paese. Ho cercato di dare in questa piccola epopea il massimo di sobrietà, però di eliminare tutto quello che mi sembrava superfluo e la ristrettezza della storia che accompagna questa protagonista che mi è cara mi permette di fare delle divagazioni di questo genere. Possiamo dire che è una sorta di, non un alter ego, una sorella, una cugina? Chi è questa? È una sorella maggiore. È una sorella maggiore. Ecco, questa sorella maggiore per esempio arriva in Italia e inizia a fare la giornalista, no? Inizia a scrivere sui giornali, poi lavorerà in una casa editrice molto famosa, la Garzanti, eccetera. Quel periodo italiano, come lo ricorda? Era anche il periodo del 68, quindi dal punto di vista politico-sociale era molto animato. Era un periodo appassionante, voglio dire, ogni giorno si rimetteva in discussione il mondo, come succede ad ogni generazione che affronta queste mini rivoluzioni. Sembrava di aver capito qualcosa che i più anziani non avevano capito. In realtà mi sono sentita subito un po' sfasata, i miei coetanei non avevano la mia storia, io non potevo raccontare la mia storia, avevo qualcosa di un po' blasé, per dirla alla francese, un po' pessimista rispetto al loro entusiasmo. Ecco, però lei, nonostante questo pessimismo, ha lavorato con entusiasmo nell'editoria. Con enorme entusiasmo nell'editoria, sì. E poi è passata appunto alla Francia, citavamo due grandi case editrici. Alla differenza della mia protagonista, io ho una vita professionale estremamente appagante che ha riempito la mia vita e l'amo molto. Lei purtroppo, ogni volta che vuol fare qualcosa, le fanno fare qualcosa di un po' diverso, per cui è più sfortunata di me. Ecco, dopo aver scritto questo suo primo romanzo, abbiamo detto in parte autobiografico, parla della sua sorella maggiore, mettiamola così, non diciamo che cos'è La Trionfante, si capisce un po' dalla copertina perché c'è una nave. Ho provato a mettere quella che ho trovato, La Trionfante. Lo si scopre alla fine del romanzo. E non sono né io né la mia protagonista, non siamo molto trionfanti. E infatti io pensavo, appena visto il titolo, pensavo fosse il libro incentrato su una donna. Trionfante, è una malizia, è per scoprire che trionfante non è. Che trionfante non è, infatti. Avrebbe voluto qualcos'altro, e ha avuto molto, ma non il trionfo. Sempre la sorella maggiore. Sempre la sorella maggiore. ma a questo punto la sua carriera di scrittrice pensa si fermerà qui, così questo è un libro, si è concessa una parentesi, o pensa che effettivamente potrebbe essere un nuovo modo di affrontare l'editoria? Spero che lei mi creda, non lo so. Ci credo. Prima dicevo no, mai, adesso non dico né mai né sì. Non Quindi insomma so. Lasciamo le porte aperte. Sì. In fondo sono più giovane della mia protagonista, mi rimangono degli anni per decidere. Grazie a Teresa Cremisi, autrice del libro Esordiente, abbiamo detto esordiente insolita, autrice del libro La Trionfante, pubblicato in Italia da Adelphi. Ora facciamo una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Continuiamo a parlare di libri, visto che sono in corso gli europei di calcio, ad agosto ci saranno le Olimpiadi, parliamo di un libro che parla di sport. Si intitola I Cantaglorie, l'ha scritto Giampaolo Ormezzano, pubblicato da 66 and the Second. È un libro che Ormezzano, decano dei cronisti sportivi, ha dedicato ai suoi colleghi e agli altri giornalisti sportivi. Lui a un certo punto scrive: «Nella mia carriera ho conosciuto tantissimi giornalisti sportivi, dai cazzari agli onesti, dagli studiosi dello sport ai demagoghi, dai colti ai nemici del congiuntivo». E così ha creato tre macro categorie con le quali classificare i suoi appunto colleghi cronisti sportivi. Ci sono i cantori, gli erotisti e i pornografi. Sentiamo Ormezzano. Cantori, l'amore. Giornalisti sgrammaticati molto, ma innamorati dello sport, tant'è vero che inventarono delle manifestazioni, ci credevano, non vedevano quasi niente, perché soprattutto era il ciclismo ad attirare, ciclismo accompagnato dalle sue romanticherie di viaggio, eccetera. E inventavano bene, inventavano sgrammaticati nonostante la presenza di alcuni illustri, la massa era sgrammaticata però col cuore, e in redazione giovani di studio, tra cui io, gli mettevano a posto i pezzi. Come sempre quando c'è un amore subentra l'erotismo, che è lo studio dell'amore. Qua abbiamo avuto massimo nome possibile Gianni Brera, con tanti epigoni succedanei, anch'io forse mi hanno collocato di quello, comunque nessuno all'altezza di una sua unghia, ecco. Gianni era talora accusato di non lanciarsi anche nella letteratura tout court, come se quella che lui scriveva di sport non fosse letteratura. Cosa capita dopo l'erotismo e con l'avvento della tecnologia? Si arriva alla pornografia, cioè l'atto, anziché studiato da sapiente, esposto al volgo, con tutti i sussidi tecnologici, e lo sport di adesso, ecco, che non è migliore o peggiore di quello di una volta, è diverso, tutto lì. In più è arrivato un elemento nuovo che si chiama Denaro, è uno nuovissimo di cui non sappiamo niente, Denaro sappiamo tutto e siamo felicemente disposti a farci assoggettare e affascinare. Dell'altro non sappiamo niente, c'è il panico totale e internet, nessuno sa come va a finire, come andiamo a finire, se andiamo a finire. I miei colleghi della Rai TV che si sentivano depositari di un Vangelo, quello delle immagini, quello dell'informazione che ti arriva a casa, si sentono anche loro spiazzati, non sanno. Non so se ci sarà una quarta categoria, cosa arriva dopo i pornografi? Probabilmente il nulla. No, il nulla, ecco, pure il tutto. Ripeto, non voglio passare per il vecchietto che nei film del Far West scatarra, dice ai miei tempi e tutti dietro gli fanno le smorfie. Io dico diversi solo i tempi sono. Però ecco, questa categoria della pornografia riguarda solo i giornalisti sportivi, televisivi e sul web o anche quelli della carta stampata? Ma attenzione, noi sportivi siamo anche della carta stampata, vorrei chiarire, redazioni più o meno. Quindi la pornografia riguarda un po' tutti? Sì, però direi che lo sport ti dà una bella materia prima, cioè la pornografia dello sport è il show permanente, è la performance esibita a tutti. Tra poco saremo con le telecamere all'interno dei corpi, ecco. Già mi sa che nella cinematografia hanno fatto degli esperimenti di questo tipo, il coito dall'interno per esempio, quindi non è così strana la cosa. Io ricordo quando Giovanni Mosca, quello che con Guareschi e Manzoni dava vita al Candido, no? Il padre del Maurizio Mosca, diventato poi pornograficamente famoso con la Rai, ecco, Mediaset. Giovanni Mosca mi diceva, specialmente durante i giri di Francia, quando tu senti un po' come dire, pioniero, italiano all'estero, c'è più confidenza, mi diceva, vedrai che tra poco andiamo a vedere i primi spettacoli di nudo, allora vietatissimi in Italia, no? Nella liberissima Francia. E mi diceva, tra poco mostreranno le ballerine in pancreas, perché non basterà il nudo, e chissà cosa c'è dopo, ecco. Allora, esclusi i presenti però, fra le tre categorie, insomma, i cantori, gli erotici, diciamo così, ecco, i pornografi, mi dice uno di ogni categoria che le piace? Ma i cantori è molto facile, ho avuto l'onore, il piacere di frequentare Dino Buzzati all'Olimpiade di Innsbruck, sia pure limitatamente agli sport invernali, è un'esperienza durata pochi giorni, è un fuori classe assoluto come me, è un fuori classe nella letteratura tout court, non soltanto... quindi è troppo facile. Se devo dire invece tra i cantori che improvvisavano i pezzi, Ruggero Radice e Detto Raro, l'ho trovato tutto sport, amico di mio papà, però su un piano qualitativo molto diverso. Erotisti, Gianni Brera, non si discute niente, direi dopo di lui un esequo tra cui ci metto anch'io, ecco. E pornografi su tutti, Aldo Biscardi, un mago della pornografia, anche parlata, ha fatto della pornografia parlata senza dire parolacce, quindi dicono Maurizio Mosca, io conosco il retroterra della conversione di Mosca al populismo televisivo, sono molto nobili per far del bene delle persone, quindi non ci sto, era un porno, sarebbe come se Rocco Siffredi facesse tutto per un convento di francescani, ecco. E quindi no, dire Biscardi su tutti, il maestro, però un grandissimo... non cultore del congiuntivo, ecco. Ma un grandissimo, è diventato un genere, cercano penosamente di imitarlo, ecco. E poi vorrei isolare due personaggi, uno è Sergio Zavoli, per cosa mi ha dato, continua a darmi il bene che mi vuole, anche per come mi ha sgridato sapientemente per certe cose che ho fatto il 90° minuto, la mia esperienza finita attualmente, ecco. E l'altra è Emanuela Audisio. Emanuela è una grande, proprio qualsiasi cosa scrivo la vado a leggere, ecco. Ci sono pochi motivi al giorno d'oggi per leggere l'articolo di quello lì invece di quello là. Quello lì metto Mura, Gianni Mura. Non forse che c'è l'Audisio tra i piedi e tra le braccia, perché sono molto affezionati uno all'altro, sarebbe lui, posto di, per un po' di cavalleria anche, ecco. No, Gianni Mura e basta, direi. Ho dimenticato il nome dell'italiano più conosciuto nel mondo in assoluto, non nel giornalismo, ed è il mio carissimissimo amico fraterno Gianni Minà. Sono stato di recente a Roma da lui. Abbiamo fatto un 3 ore di full immersion in noi stessi. Si guazza bene. E questo era Giampaolo Ormezzano che ci ha parlato di I Cantaglorie, pubblicato da 66 and the Second. Ammetto la mia ignoranza, non sapevo che Dino Buzzati avesse fatto anche cronache sportive. E in questo devo dire mi ha soddisfatto, diciamo, le mie curiosità, il collega Dario Ceccarelli, che probabilmente ricordate per il graffio che va in onda la mattina nel GR, ma è un grande esperto di sport, soprattutto di ciclismo. E mi ha raccontato come tanti scrittori prestigiosi negli anni 60 venivano siano, come dire, prestati alla cronaca del Giro d'Italia. Vi faccio degli esempi: Indro Montanelli, Vasco Pratolini, Dino Buzzati, come già citato, Curzio Malaparte, Mario Soldati, Cesare Zavattini. Allora, gli articoli scritti da questi grandi anche della letteratura, scritti in una prosa ancora modernissima, sono contenuti in un libro, Indro al Giro, viaggio nell'Italia di Coppi e Bartali, cronache dal 1947 e 1948, pubblicato da Rizzoli. Questo è un libro che vi consiglia personalmente l'amico e collega Dario Ceccarelli. Come festival letterario stavolta vi segnalo Parolario. A Como è iniziato il 16 giugno e andrà avanti fino al 25 giugno. Fra gli ospiti che ci saranno ancora, allora vi segnalo per esempio Antonio Manzini, strepitoso vederlo dal vivo perché è veramente molto divertente, e parlerà del suo personaggio seriale, il vicequestore romano Rocco Schiavone, che è stato trasferito per punizione ad Aosta. Poi ci sarà un incontro con Elisabetta Rasì, che è una delle 5 finaliste del premio Campiello, con Simonetta Agnellorbi, che sta avendo un grande successo di pubblico con l'ultimo romanzo Caffè Amaro, Mauro Corona, poi tanti altri, laboratori per bambini, insomma, trovate tutto su www.parolario.it a Como fino al 25 giugno. Come sempre, prima di chiudere, vi ricordo che ogni martedì sul sito del Sole 24 Ore viene pubblicata una nuova puntata di Autori. Si tratta di un video nel quale uno scrittore legge un brano del suo libro e parla del suo romanzo, insomma, un po' a modo suo. Martedì 21 giugno è la volta di Franz Krauspenar con il libro Le monetine del Raphael, edito da Gaffi. Il riferimento è al noto episodio dell'aprile del 93, quando all'ingresso appunto dell'Hotel Raphael una folla piuttosto arrabbiata lanciò monetine contro Bettino Craxi. Sentiamo un estratto. Una volta Cecilia, dopo aver visto uno strano quadro che mi era venuto fuori in quei giorni direttamente dal nulla, veduta dall'oblò del 18 della nostra fine, nel quale si vedeva un oblò d'aereo dipinto quasi grossolanamente, con poche pennellate chiare e nervose, senza quasi ombreggiatura, e fuori un taglio discendente tra cielo e terra, e questa terra l'avevo dipinta come se fosse lì, a portata di mano, zolle su zolle, come ravvicinatissime, quasi da toccare, si commosse. È tutto per questa puntata, grazie in regia Pietro Lacorte. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate, anche quelle d'archivio, su radio24.it. Se volete essere sempre aggiornati, seguitemi su Twitter. Una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.